9 in punto, la versione di Oscar. Buon lunedì 2 novembre, buon inizio di novembre, un inizio piovoso, un inizio di un mese triste per definizione. E invece oggi ci occuperemo di un tema che spero non vi vedrà tristi intervenire, ma vi vedrà attenti a fare delle domande e delle considerazioni. Di cosa parleremo oggi? Delle Ferrovie dello Stato. Avremo un incontro con l'amministratore delegato Mauro Moretti per fare il punto su i nuovi servizi ad alta velocità che partono tra poco, ma anche sul trasporto regionale, ovviamente, che è quello che preoccupa molti lavoratori pendolari, sulla efficienza che si vede nei numeri del bilancio, ma anche, come direbbe un personaggio politico ben noto, sui tanti problemi che fanno delle Ferrovie dello Stato e dell'ambizione di risanarla, di migliorarne la gestione, il conto economico e quindi per diminuire il contributo che ogni anno i contribuenti gli devono dare, un'ambizione smisurata, quasi come quella che nelle barzellette accomuna chi vuole gestire meglio le ferrovie a Napoleone Bonaparte. Oggi ci occupiamo di Ferrovie dello Stato e lo facciamo con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Buongiorno Moretti, che è il nostro ospite da Roma. Buongiorno. Allora, io, come sempre, la nostra abitudine è che dico in un minuto una specie di pistolotto iniziale, la sintesi di quello che penso l'argomento del giorno, e oggi sarà ancora più breve. Mi limito semplicemente a mettere a fuoco per chi ci ascolta e che interverrà, come sa, caro Moretti, nella nostra trasmissione, perché chiamerà l'800 24 00 24, quindi le chiederà alcune cose ai nostri ascoltatori, ma metto a fuoco anche per loro alcuni dei punti su cui ci faremo questa chiacchiera insieme a lei, per capire lo stato dell'arte di questa azienda fondamentale per la vita di 2 milioni e più di italiani ogni giorno, 7.000 treni ogni giorno che girano su 16.000 chilometri di rete. Insomma, è una dorsale, è il vettore infrastrutturale di trasporto importante e che da molti anni abbiamo sempre pensato dovesse diventare sempre più importante, perché troppo invece va su gomma. Naturalmente le Ferrovie dello Stato sono anche una sintesi di tanti problemi italiani. Allora io do alcuni flash per capire di cosa parleremo con lei. Innanzitutto, siccome noi siamo contribuenti e siccome Ferrovie dello Stato ovviamente è un'azienda pubblica e che quindi vive anche del rapporto con lo Stato, mi limito a fotografare quello che ha detto la Corte dei Conti due mesi fa, quando ha fatto la fotografia di che cosa succede negli ultimi anni dal punto di vista economico. Lo dico per chi ci ascolta, sto leggendo da 4 agosto, Corte dei Conti, che approva l'amministrazione di Mauro Moretti come capo delle Ferrovie dello Stato e dice, Corte dei Conti, parole sue: il biennio 2007-2008 ha rappresentato un periodo di svolta nella gestione del gruppo Ferrovie dello Stato. La situazione di gravi deficit strutturale del gruppo, registrato a fine esercizio 2006, chiuso all'epoca 2006 con una perdita complessiva di 2.115 milioni di euro, quindi 2.1 miliardi, e addebitate per oltre il 90% a Trenitalia, è stata pressoché totalmente risanata sotto il profilo gestionale nell'arco di 2 anni. Parole di Corte dei Conti. Vero è, seconda riflessione, che in questi anni, sono 3 anni insomma che addebitiamo a Moretti come amministratore delegato, i ricavi crescono, doppia cifra, 18%, le vendite, cioè i biglietti, crescono un po' meno di quel 18%, cresce molto la capacità dell'azienda di fare 2 cose, continuare nell'efficienza di gestione e dall'altra parte farsi pagare di più anche dalla parte pubblica, sia per la parte infrastrutturale sia per la parte dei servizi. Terzo capitolo, i servizi che ci offre Trenitalia. Diciamo che ci sono 2 grandi riflessioni da fare. C'è una grande riflessione da fare sul segmento alta velocità, il segmento qualificato, dove ricordo a tutti siamo oramai in un'epoca di concorrenza voluta dall'Europa, in cui ci sarà dal 2011 un concorrente privato anche in Italia che lancia la sfida, ma soprattutto bisogna avere la capacità lì di saper portare anche la sfida nei grandi altri paesi europei. Poi c'è un secondo elemento del servizio, quello che riguarda, parlando dei passeggeri, il servizio di trasporto regionale. Faremo una riflessione con Moretti. Moretti ha dato uno scrollone alla regione su questo, gli ha detto: cari signori, mi dovete pagare di più per un servizio in cui io ci perdo ed è un servizio di trasporto universale, o vi responsabilizzate, visto che la responsabilità della costruzione è data a voi, oppure io non so che fare, perché non posso continuare a perdere senza che ci mettiamo intorno a un tavolo e capiamo che cosa siete disposti a pagare voi. Infine, altro capitoletto: il trasporto cargo, il commercio di beni e servizi in un paese che dovrebbe su questo essere molto più efficiente, e invece su questo Ferrovie dello Stato ha avuto un azionista che non le ha fatto fare delle scelte, ci ha perso un fracco di soldi, proprio veramente un fracco di soldi, ci ha perso più di quanto faceva di fatturato ogni anno, con il risultato che nella parte più economica dell'Italia, più utile, più di mercato, voglio dire, dove questo servizio rende di più, ci sono concorrenti, perché anche lì c'è la concorrenza, è come giusto, io sono per la concorrenza, e quindi si è perso molto per tenere un servizio mal fatto. La mia colpa, lo dico subito, è dell'azionista, perché chi guidava l'azienda diceva all'azionista fammi fare delle scelte, l'azionista non gliele ha fatte fare, con il risultato che ha perso molto, e sono probabilmente gli altri, i concorrenti, ad aver capito meglio dove si fa la concorrenza nella tratta polimermolativa. Infine, punto, fine della mia cosa iniziale, le Ferrovie dello Stato sono anche una sintesi dell'inefficienza del sistema pubblico del paese, oltre che dei punti di efficientamento che abbiamo tentato qua in breve di ricordare. Tra questi mi corre l'obbligo, come si suol dire, tra tutte le critiche che merita, di ricordare a chi ci ascolta un libro che è appena uscito. È un libro che si chiama Claudio Fuori Orario, è il titolo del volume, è editore Chiare Lettere, quindi un editore che di solito pubblica cose molto critiche. L'autore Claudio Gatti è un collega del Sole 24 Ore. È un libro molto critico, tanto critico che mi fa pensare che siano felici soprattutto i concorrenti di Ferrovie dello Stato, a dire la verità. Allora, Moretti, fine della mia sintesi, spero di non aver detto troppe sciocchezze dal suo punto di vista, ma il mio mestiere è quello di tentare di fare in pillole un po' di punti della situazione. Allora, iniziamo innanzitutto dall'efficientamento. Lei ha ereditato una situazione terribile dal punto di vista dei conti economici. La Corte dei Conti, abbiamo sentito cosa dice. C'è chi dice però che voi siete più bravi a farvi dare i soldi dallo Stato della Regione che dai passeggeri per l'offerta di servizi qualificati. Cominciamo di qua? Assolutamente sì, ma vorrei dare tre numeri per fare capire, così anche alcune sciocchezze scritte nel libro di Gatti vengono subito messe in luce. Io ho trovato un margine operativo lordo, quindi la differenza tra costi e ricavi, di meno 650. E nel 2008, facciamo i numeri già certificati, certificazione Pricewaterhouse, abbiamo avuto un margine operativo lordo positivo per 1 miliardo e 35. La differenza è 1 miliardo 600, 670 più o meno, 685 per intenderci. Questo è il punto. Il margine operativo è aumentato da quando io l'ho preso di 1 miliardo 680. Come? Circa 800 milioni sono minori costi, circa 700 milioni sono maggiori ricavi. Dico questo perché qualcuno dice che abbiamo truccato i conti. I conti forse vengono truccati quando alcuni signori che hanno partecipato a quel libro, che peraltro sono dei fantasmi, non so come si faccia un libro con dei fantasmi, almeno il coraggio di far vedere la faccia ci vorrebbe. Aspetti, per far capire a chi è a casa, devo dire, il libro è fatto con dichiarazioni e documenti portati da ex dirigenti, dice Claudio Gatto, del gruppo, che vengono denominati come dirigente 1, dirigente 2, perché naturalmente restano anonimi. Non ho mai visto in nessuna azienda al mondo che ex dirigenti non abbiano il coraggio di farsi vedere e criticano l'azienda, francamente. Non so, Fiat, giusto per citare qualche ristrutturazione importante. Ma quello che voglio far capire è che abbiamo fatto un lavoro in cui, da un lato, abbiamo agito molto sul taglio dei costi. Taglio dei costi vuol dire taglio anche di sprechi enormi. Penso a quelli che facevamo, ad esempio, sulle relazioni esterne, la pubblicità o cose, i consulenti a bizzeffe. Si dice che è stato sbagliato mandare via la polizia privata, ma adesso abbiamo, con le ultime relazioni che si dà la Polfer, il 60% in meno di crimini, perché abbiamo rimesso la polizia sui treni e nelle stazioni, dando i soldi alla Polfer e non alle polizie private. E abbiamo fatto tanti tagli di quegli sprechi, per cui oggi noi siamo in grado di poter dire che l'operazione sui costi, anche se non è completata, in grande parte l'abbiamo fatta. Poi ci siamo rivolti naturalmente anche al problema dei prezzi. Nella parte di mercato abbiamo agito sulla qualità del prodotto e direi con un discreto successo, perché era abbastanza difficile pensare 3 anni fa che noi avessimo la possibilità di fare un servizio come quello che oggi garantiamo su Freccia Rossa o su Freccia Argento, che partirà da dicembre. E le assicuro che i treni e il materiale rotabile, quando sono ben tenuti e quando sono ben usati, è un capitale investito e non vengono anche quelli utilizzati malamente, possono fruttare tantissimo. E così noi facciamo, a tal punto che sulle linee fondamentali dell'alta velocità abbiamo delle frequenze con i treni che abbiamo, che non si sognano nemmeno in Francia o in Germania. In alcuni casi arriviamo a un treno ogni 15 minuti. D'altra parte abbiamo fatto quell'operazione che lei ha, alla quale lei ha accennato, sulle regioni. Noi ci siamo trovati con una situazione in cui, e lì si può capire alcune cose che altrimenti non sono chiare, mi permette di dire due parole su questo, le regioni, il trasporto regionale veniva pagato ancora come nel 1999. Quindi abbiamo semplicemente chiesto attraverso alle regioni e al governo di poter riadeguare i prezzi del 1999. Loro hanno fatto fare da un oro assesso la verifica di quanto dovevano darci, hanno tirato fuori i famosi 480 milioni che hanno dato ultimamente, che non coprono completamente la differenza dei costi attualizzati al 1999. E proprio per quello è stato detto dal governo alle regioni, e c'è stata anche un'intesa con la conferenza delle regioni, che la differenza rispetto al non adeguamento a quei costi doveva essere garantito dalle regioni. Abbiamo avuto con quello un grande confronto, che abbiamo fatto però su base di trasparenza, perché io non sono andato alla regione a chiedere soldi senza giustificare il perché. Abbiamo messo davanti loro una specie di catalogo di offerta in cui tutti i costi di ogni singolo servizio elementare veniva esplicitato e abbiamo fatto scegliere a loro cosa volevano. In particolare una cosa che francamente sembra assurda, non veniva considerato l'ammortamento del materiale rotabile. Quindi nei costi non compariva questa voce e non comparendo le figure dello Stato erano impossibilità di comprare treni nuovi. Abbiamo fatto questa operazione, molte regioni l'hanno convenuta con noi, alcune non sono d'accordo e andranno a fare delle gare. Io non ho nulla da dire su queste scelte di chi vuole andare a fare le gare. Vorrei che non fosse una specie di, come dire, venduta come una specie di rivoluzione. Altre regioni in Italia hanno già fatto gare, le hanno già fatte in Lombardia, le hanno già fatte nel Veneto, le hanno già fatte con una gara grande anche in Emilia. Aspetti un secondo che qui mi tocca partecipato. Aspetti un secondo che qui mi tocca fare un'osservazione, sì, da difensore del mercato. La gara che, di cui si aspettano i bandi e a cui si riferisce, stiamo parlando, lo ripeto per chi ci ascolta, del traffico regionale che appunto è di competenza delle regioni, praticamente in quasi tutte le regioni Trenitalia è riuscita, in alcune vincendo gare, come giustamente ricordava l'amministratore delegato, gare bandite, a farsi confermare Trenitalia servizi con questa formula del 6+6 generalizzata, poi in molte regioni un po' diverso, ma comunque c'è una formula di 6 anni più 6 anni. Noi siamo reduci, lo ricordo a chi ci ascolta, da anni di inadempienza del legislatore, ci siamo trascinati per molti anni la protrazione del termine temporale in cui le regioni erano obbligate a gestire il trasporto pubblico regionale con delle gare. Invece all'inizio doveva essere il 2003, poi 2004, 2005, insomma siamo andati sempre in protrazione. Queste gare sono bandite, quasi sempre vince Trenitalia fino a questo momento, e naturalmente non è che si può fare una colpa a Trenitalia questa. Adesso stiamo aspettando i bandi per il trasporto regionale ferroviario per due delle subaree della regione Piemonte, che invece ha scelto una scelta, insomma, di rottura rispetto a Trenitalia, e bisogna vedere se le altre regioni, a seconda di come va la gara piemontese, magari non riconsiderano il 6+6 e chiedono a Trenitalia un rapporto interennale, di cambiare la durata, voglio dire, della cosa. Ma questo sarà molto difficile, perché se infatti lei considera, io sono qui adesso, il mio unico giorno di vacanza annuale, perché devo raccogliere le olive, sono nel paesino. Ah, quindi le stiamo levando tempo di vacanza, questo mi dispiace. No, ma sono stato fino adesso sull'albero e ritornerò appena finita la trasmissione. E per aprire un bar e comprare un bancone, quello che me lo apre vuole la garanzia di avere qualche anno per poter ammortizzare il suo bene, o no? Sì, certo. Quando uno deve comprare dei treni che costano centinaia di milioni per una regione come Piemonte, ci dovrà essere qualche garanzia di durata del contratto o lo rinnoviamo ogni anno? In quale città al mondo, quale paese al mondo si può pensare di fare delle gare a anno o a 2 anni? No, ma non c'è dubbio. Sono 10 anni. In Francia non c'è neanche il problema, perché non fanno le gare, quindi ha risolto il problema a priori. Non c'è dubbio. Io lo dicevo solo perché lei deve capire che mentre di solito, come inevitabilmente lo vedo dalle telefonate che tra un po' le passerò, il pubblico è arrabbiato per tre ordini di ragione con voi. Primo, per la puntualità che non funziona. Sì. Secondo, per la pulizia che dopo anni eccetera eccetera. E terzo, perché il pubblico dice: attenzione, noi capiamo oramai che tutto il più dell'azienda va sull'alta velocità, va sul potenziamento del servizio Roma-Milano, su quello che ci si dice che tra poco è sotto le tre ore, abbondantemente sotto le tre ore, ma dice sul potenziamento di tutta l'alta velocità da Torino a Salerno. Ma ahimè, sul trasporto regionale noi continuiamo non solo ad essere, come su materiale rotabile, molto molto molto insoddisfacente, ma probabilmente pagheremo anche il prezzo del più di sforzo che l'azienda fa nel servizio a più alto valore aggiunto. Assolutamente no, perché i conti sono completamente separati. E noi oggi, con l'alta velocità, finanziamo le regioni, il trasporto regionale e quello delle merci, sulle quali arriveremo alla fine. Noi oggi facciamo l'operazione opposta. Con quei soldi che vengono presi dal mercato, noi oggi compensiamo quello che il pubblico non riesce a darci. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, vorrei dire, però, per la prima volta, dopo aver fatto questa operazione del 6+6, aver lasciato alle regioni il compito di fare gare oppure non fare gare, abbiamo trovato intanto che le regioni non è che abbiano molti soldi per poter mettere a disposizione per comprare servizi in più o treni nuovi. Anzi, sì, pochissimi. Tutti... Loro dicono che è lei che purtroppo gli rovina ancora di più i bilanci chiedendogliene. No, guardi che a proposito di quel giochino lì, i 177 milioni che valevano nel 96, con l'aggiornamento dei 480 per il Piemonte vogliono dire più 56, quindi rimangono fuori di quelli che noi abbiamo chiesti alla Regione Piemonte solo 20 milioni, perché per il resto glieli passa lo Stato come adeguamento del 99, quindi non come aggiunte, di cui avevamo chiesto 10 milioni per la futura inflazione e 10 milioni per acquistare 110 milioni di treni. Io così li dico in maniera aperta. Non è vero che abbiamo chiesto dal giorno all'altro un aumento di quel genere. L'abbiamo fatto in relazione al fatto che primo bisognava riappianare la situazione dal 1999 al 2008, poi al 2007 quando abbiamo fatto l'operazione di dare il catalogo. Poi c'era la richiesta fatta a tutte le altre regioni di quello che doveva essere il futuro e naturalmente se volevano aumentare o migliorare il parco materiale rotabile. Se non si aumenta e migliora il parco materiale rotabile, i treni che ci sono adesso sono destinati solo ad invecchiare, perché non si pagano le quote d'ammortamento. Allora, in questa logica, voglio capire, com'è possibile ancora pensare che noi continuiamo a dover gestire un servizio incassando la metà di quello che pigliano i tedeschi e i francesi e avendo gli stessi costi? Ben vengano le gare per verificare se vi sono delle persone che riescono a fare un servizio migliore, non so, avranno la bacchetta magica. Però francamente, se mi vedessi una società SNCF che viene in Italia a far costi la metà di quello che fa in Francia, a quel punto chiederei perché, o no? Vabbè, cioè, se sono tutti grandi incumbents, come si dice in gergo tecnico, cioè ex monopolisti pubblici, cioè gli equivalenti delle Ferrovie dello Stato in francese, SNCF oppure Deutsche Bahn, è evidente che per portare concorrenza, non potendo più crescere nel proprio mercato nazionale, per crescere negli altri, lì abbattono i costi rispetto ai sussidi pubblici che ricevono ciascuno dei paesi di provenienza. Questa è un po' dumping, è fatta solo per esattamente mercato, questa... e poi la pagheranno a breve gli italiani, i pendolari. E questo non c'è dubbio, questa è un po' l'accusa che naturalmente i mercatisti come me fanno un po' a questo impianto, in cui chiedere tutto alle aziende che restano pubbliche. Le aziende pubbliche hanno inglobato, come abbiamo visto nel passato, nel proprio modello di gestione, inefficienze profonde. Adesso lei sta tentando di abbattere i costi. Esatto, però con quello che si può fare, naturalmente, con quello che si può fare, perché non si può licenziare la gente. Permetto un'altra cosa, sì. Io comunque con questa operazione regioni abbiamo tirato fuori quelle che ci sono state, naturalmente, quelle che non ci sono state faranno come desiderano fare. Abbiamo tirato fuori 1,5 miliardi di soldi per fare nuovi investimenti in materiale rotabile e trasporto locale, che è un po' che non si vedeva più questa cosa. Anzi, perdoni, in questi 3 anni io ho fatto solo un acquisto, perché tutti gli altri treni sono ordini precedenti ai miei. Io ho fatto un solo acquisto di 150 locomotori per il trasporto locale. Sa come l'ho fatto questo acquisto? Con il taglio degli sprechi. Gli sprechi che ho fatto, non il taglio del costo del lavoro, no, chiaro. Ma il taglio degli sprechi l'ho tradotto in locomotive per il trasporto locale, ne ho preso 150. Adesso abbiamo 1,5 miliardi più 500 milioni che ci dà lo Stato, quindi 2 miliardi per fare nuovo trasporto, materiale e trasporto locale. Abbiamo già ordinato 100 locomotive più altre 150 in opzione e abbiamo una gara in corso che si conclude il 18 di novembre, quindi siamo stati velocissimi. Lei sa che abbiamo un mese fa dichiarato queste cose, per le carrozze 2 piano e quindi fare i cosiddetti treni di vivalto, che al 18 dovrebbero darci gli esiti. Un po' di telefonate e poi riprendiamo esattamente da dove ce l'abbiamo interrotti, perché poi dobbiamo parlare dell'altro segmento, quello a maggior qualità, diciamo a maggiore intensità di investimenti, anche per realizzare le linee, ohimè, cioè l'alta velocità, a quello che studio su questo e alla concorrenza in Italia e fuori. Allora, sentiamo un po' di telefonate, Moretti. Iniziamo con Elsa da Roma. Elsa, prego. Buongiorno. Senta, io volevo dire questo, vorrei che quel signore che ha parlato fino adesso, gentilmente e molto carinamente, facesse un viaggio con me da Roma in Sicilia per vedere in che stato sono i sedili, i bagni e tutto quanto il resto. Quando si alza uno dopo 8 ore, 10 ore di treno, scende con la schiena rotta. Poi le voglio dire un'altra cosa, io l'anno scorso sono andata a Lourdes con il treno bianco. Quando sono scesa alla stazione francese a Lourdes, mi sono vergognata di guardare il mio treno com'era in condizione dentro e fuori, di fronte a vedere quelli che stavano alla stazione com'erano i loro treni. Basta, non dico altro perché ci sarebbe da chiacchierare per molto tempo. Infatti, servono però gli esempi concreti per trarne spunto. Marco da Cagliari, prego Marco. Buongiorno, vorrei fare i complimenti comunque al dottor Moretti perché comunque approvo la sua politica, però chiamando da Cagliari non posso fare a meno di far notare, evidenziare le problematiche della linea ferroviaria sarda, per cui è vero, sì, come dice anche il dottor Moretti, che in Sardegna non c'è una grossa capacità di utenza, in quanto ci sono solo tre o quattro città di una certa grandezza, Cagliari, Sassari e Olbia per intenderci, però non è ammissibile che nel 2009 si impieghino 4 ore e 35 minuti per andare da Cagliari a Olbia, che è una distanza pari esattamente a quella tra Firenze e Milano. E questo non è che derivi tanto dalla gestione attuale o anche del dottor Moretti, ma deriva dal fatto che in Sardegna c'è un'unica rete ferroviaria a binario unico, tranne che per 50 chilometri vicino Cagliari, e per di più c'è il vero e proprio problema, è il nodo di Chilivani, per il quale per andare da Cagliari a Olbia devi fare un giro su se stesso, un giro che non ha proprio senso. E quindi vorrei sapere dal dottor Moretti cosa intende fare per fare tutta la linea sarda a doppio binario, per evitare di dover passare da Chilivani, perché è come se da Firenze a Milano dovessi passare da Genova. Non lo so, la mia opinione è che lì non vale la pena l'investimento, però detta questa è la mia opinione, perché poi il mercatista sta dando molto spazio in questa trasmissione e quindi si sente molto poco, però lì oramai c'è un modello che non è quello ferroviario, quindi. Però sentiremo cosa ci dice Moretti. Giovanni da Milano, prego Giovanni. No, io sono, complimenti a Moretti sicuramente per il grande cambiamento che ha portato. Io sono un cliente dell'alta velocità di cui sono relativamente contento, qualche ritardo e sistemi di recupero dei crediti per il ritardo un po' kafkiano, però c'è. Ho partecipato a gare per Trenitalia, per i servizi di Trenitalia, e trovo che le gare al ribasso sicuramente portino dei vantaggi, ma alta attenzione, perché sennò chi è a casa poi dice che questo è conflitto di interesse. Che vuol dire che ha partecipato a gare? Lei che azienda ha? Che cosa fa per le ferrovie? Io faccio comunicazione e marketing, siccome in quell'area sicuramente Moretti ha portato dei sistemi di efficienza, le gare al ribasso però molto spesso nascondono dei tranelli che secondo me tutte le strutture pubbliche, compresa Trenitalia, che in fondo è pubblica, ha ancora dei passi avanti da fare. Però il punto vero fondamentale è che io vivo a Biella e lavoro a Milano e amerei poter non dare soldi a Gavio, Garrone e Agnelli per arrivare a Milano a lavorare. Purtroppo il trasporto tra Biella e Milano è assolutamente inaccettabile, non è un problema, non è una colpa di Moretti, ma credo che quello sia veramente un investimento che, mi dispiace, concordo con lei essendo un mercatista anch'io, ma credo che invece lo Stato e le regioni debbano aiutare a risolvere, perché è un problema fondamentale dell'economia anche in Grazie mio. Giovanni, grazie Giovanni, però distinguiamo nettamente, questo poi mi taccio per sempre, distinguiamo gli investimenti sulle infrastrutture, in cui certo quella è una rete fisica a monopolio naturale, e sono d'accordo anch'io che lì è l'investimento è soprattutto pubblico nelle ferrovie, però a quel punto bisogna separare nettamente, questo prevederebbe la teoria, in Italia non ci siamo ancora riusciti, piano piano ci si arriverà, a separare nettamente la gestione delle infrastrutture fisiche, cioè quella che oggi è rete ferroviaria italiana, da chi poi sulle infrastruttura deve gestire i servizi, cioè Trenitalia deve farlo nella parte di servizio naturale regionale, come abbiamo visto, con regole più chiare di fronte a quello che gli costa offrire quel servizio da parte delle regioni, per avere più risorse commisurate a un servizio che, lo ripeto, è quasi sempre in perdita rispetto a quello che offre ai passeggeri. Ai passeggeri sembrerà inadeguato sempre, lo so, ma è quasi sempre in perdita, e invece nettamente distinguendo rispetto alla parte del mercato in cui c'è più alta concorrenza e in cui ci si fa la guerra vera in Italia e in Europa, la sarà sempre più così, che quella dell'alta velocità e quella del cargo. Allora, separando chi gestisce l'infrastruttura, dove si concentra più dell'investimento pubblico, sarà sempre così, e perché a quel punto deve offrire tracce a tutti coloro in piedi di parità di mercato, a tutti coloro, a cominciare da Trenitalia e ai suoi concorrenti, per passare sull'infrastruttura, forse sarebbe un po' meglio. Fine del pistolotto, mi taccio. Moretti, riprendiamo in questo caso dall'alta velocità. Parliamo un secondo di questo servizio, il potenziamento che parte tra poco, ma soprattutto le faccio una domanda. Sarà un servizio in cui ancora un anno, aspettiamo, ci sarà più concorrenza. Io le chiedo se lei questa stessa concorrenza che avrà in Italia sarà in grado di portarla in Francia e in Germania. Beh, questa è un'ottima domanda, anche perché mi permette di dire che non tutti i paesi hanno fatto un'operazione di liberalizzazione come in Italia. Cioè, da noi oggi sembra normale dire che le regioni fanno le gare, che Montezemolo viene a far concorrenza e così via, ma in Francia di questa discussione non c'è nulla. In Germania c'è molta limitazione. Io personalmente ritengo, lo dico spesso anche come presidente della Ferrovie Europee, che la liberalizzazione è una cosa assolutamente indispensabile, perché il nostro problema è creare un mercato europeo anche nel settore ferroviario e avere dei privati, e non solamente i vari stati, che investano in business ferroviario, quindi questo mi va assolutamente bene. Quando arriveranno i concorrenti in Italia, credo che saremo in grado di poter competere, già da dicembre prossimo arriveremo a un livello di servizi altissimo per frequenza, velocità e qualità di bordo, e lo stesso servizio cerchiamo di portarlo in altri paesi. Stiamo guardando delle rotte, naturalmente le più importanti, in Francia e nel nord Europa. In Francia abbiamo già fatto domanda di ingresso, abbiamo chiesto gli slot, siamo il primo incumbent e in generale la prima impresa che chiede in Europa, al di là che in Italia, nei paesi d'Europa, che chiede di entrare sui mercati di altri paesi. Abbiamo avuto grandi difficoltà, le grandi difficoltà sono che non ci omologano il materiale rotabile, paradossalmente deve partecipare all'omologazione del materiale rotabile Sensef, che è il concorrente. Per avere servizi alle stazioni bisogna chiedere Sensef, che è il concorrente di Trenitalia, e di seguito non riusciamo ad avere certificati di sicurezza, ed è strano perché noi siamo nell'ambito dell'Europa l'impresa che ha il più alto grado di sicurezza, quindi proprio qualche giorno fa a Napoli, in una conferenza sulle grandi reti europee ferroviarie, lei si è rivolto al ministro dei trasporti francese dicendo: ma come mai questo certificato di sicurezza a materiale rotabile, che viene concesso o meno da un centro di sicurezza ferroviario francese, che naturalmente dipende dal monopolista pubblico a quale voi portereste concorrenza, non ci dà questa certificazione? Il ministro ha detto: ma non è vero, non è... come sta davvero questa faccenda? La domanda ai francesi per questa certificazione di sicurezza l'avete depositata, oppure, come dico i francesi, non l'avete mai depositata? No, assolutamente depositata, vi sono varie lettere anche di claim oltre che di deposito. Lì sono state addotte dei motivi tecnici che non sussistono, perché noi abbiamo superato con la nostra tecnologia qualsiasi motivo tecnico, proprio non esiste il problema. La cosa è molto diversa, che la Francia ha una concezione del mercato ancora agli albori. Noi comunque, poniamo questo problema. È facile venire in Italia ed essere colonizzati sulle parti di mercato più pregiate. Lei parlava prima delle merci. Beh, se uno viene in Italia e si mette sul Brennero, fa soldi di sicuro, ma se poi deve andare a fare treni anche in Sicilia, lì che perde almeno il 50% rispetto ai costi, sicuramente non ci viene nessuno, non ci viene. Ed era allora questa la decisione che secondo me l'azionista non l'ha mai messa in condizione di fare, giustamente, cioè di riordinare e di ridurre il perimetro dell'attività cargo, invece che continuare a servire centinaia di stazioni punto punto totalmente in perdita, per ridurre sui perimetri in cui l'attività era più economica, e allora sì fare più apertura, perché lei aveva a quel punto, si concentrava e perdeva meno risorse anno dopo anno, più di quanto riusciva a fatturare su quel servizio. Però in quel caso, lo voglio ricordare a chi ci ascolta, è stato l'azionista che di fronte ai manager che chiedevano non gli ha detto fa così. Ha ragione o torto? Beh, non può polemizzare con l'azionista, però insomma. non voglio dare colpe solo all'azionista, perché poi un'impresa come la nostra deve sapere fare le proposte, come ho fatto nel trasporto regionale, adesso faremo, e anche sulla lunga percorrenza, adesso lo faremo anche nel NERCI, distinguendo quali sono le parti dove il mercato lavora da solo senza necessità di contributi e dove invece c'è bisogno che lo Stato intervenga con i contributi, facendo anche lì dei servizi universali. Ma in quel caso lo Stato poi potrà fare gare per mettere in gara il proprio servizio, darlo a Trenitalia o ad altri. Una pausa, perché ci abbiamo un'informazione stradale, dura un minuto e poi andiamo fino alla fine. La interrompo solo per dire che dobbiamo fermarci ancora un secondo prima di parlare del cargo per l'alta velocità, perché in realtà il nocciolo duro del libro di Gatti, solo su questo le chiedo di rispondere, è che voi tra poco farete la stessa fine di Alitalia, cioè la parte ad alto valore aggiunto, l'alta velocità, diventerà la bad company che si papperanno i vostri concorrenti, cioè Montezemolo che ha il 20% dei francesi già in pancia, esattamente come è successo per l'Italia, e il resto rimarrà a spese invece di noi contribuenti. E lo devo chiedere per forza di rispondere a questo, perché sarebbe inquietante. C'è un rischio che finisca come all'Italia e che i francesi, che hanno già il 20% di questa società che vi farà concorrenza, che peraltro è tutto nelle mani già impegno di Banca Intesa, che la finanzia dall'inizio alla fine, quella del concorrente privato nell'alta velocità, che vi prenda la parte buona come in Alitalia, secondo lei esiste davvero? Ma io non credo, perché già adesso noi abbiamo, ripeto, una qualità elevata se paragonata all'alta velocità francese o anche all'alta velocità tedesca. Non abbiamo particolari timori per questa partita, ma soprattutto abbiamo un'altissima frequenza, cioè noi già adesso nelle ore di punta partire un treno ogni quarto d'ora. E quest'anno aumenteremo del 30% il numero di treni sulla rotta Milano-Roma-Napoli e metteremo un'operazione di sovrapposizione anche nelle rotte verso Verona, verso Venezia. Lei può ben capire che quando la gente arriva e in qualsiasi momento sa che c'è un treno per poter andare in queste direzioni e altri invece avranno un treno ogni tanto che si collocherà nelle tracce, beh, qualche difficoltà forse ci sarà. Credo che in questo caso l'elemento frequenza, naturalmente collegato con un'operazione di prezzi che sia adeguato, sia in grado di poter reggere qualsiasi concorrenza. Le dico questo piccolo aneddoto. Quando ci fu i francesi che entrarono nella società NTV, il mio collega tedesco venne in Italia per dire che facevano una società insieme per evitare che il mercato andasse ai francesi. E anche lui sosteneva quello che sostiene il libro, che non avevamo treni per fare concorrenza. Quando gli ho fatto vedere il grafico dell'orario, che già adesso ha un treno ogni quarto d'ora che parte da Milano verso Roma e viceversa, anche lui mi ha fatto una domanda: ma dove li hai presi questi treni? Questi treni sono i famosi ETR 500, che quel libro dice essere vecchi, sono treni che hanno un'età media di 10 anni con le locomotive fatte negli ultimi anni. Se va a vedere in Francia l'età media sono 20 anni quasi, esatto. Siamo tra la flotta più giovane e siamo stati in grado di concentrarli per far massa critica, dove? Nel mercato più redditizio. Credo francamente che questa operazione, collegata anche ai nuova flotta che sta venendo fuori adesso dei Freccia Argento e alla nuova flotta che abbiamo reso disponibile togliendo i treni nostri in Svizzera, altra vicenda fatta in passato, ma peraltro dagli stessi manager che oggi criticano essendo fuori, quella è un'altra piccola mondo da vedere, pagavamo i treni per stare in Svizzera, non facevamo utili, però gli investimenti li facevamo per gli svizzeri. Ho rotto la società Cisalpino, quella flotta me la riprendo, me la utilizzo dove voglio. Dove? Proprio sui mercati europei, perché io ho già una flotta in questo momento per poter andare sui mercati tedeschi e francesi. E quindi anticipando questo rispetto alla concorrenza, credo di poter fare un ottimo lavoro. Tenete presente anche che noi oggi facciamo già qualità a livello di quei signori, anche con dei prezzi che sono al di sotto. E se io oggi mi mettessi con questi prezzi, ad esempio, tra Amsterdam, Bruxelles, Parigi, il mercato lo scompaggia. Naturalmente questa secondo me è la vera ragione per cui lei avrà delle difficoltà a esercitare tracce sul mercato francese, perché penso che potendo offrire dei prezzi più bassi i francesi la terranno fuori. Mi permette anche di dire altre due cose che mi riguardano personalmente quel libro. Dice una cosa che è incredibile, che noi non abbiamo la puntualità, ma noi abbiamo detto che a 15 no, minuti abbiamo quel la quel libro dice che qua, mi devo dire, quel libro dice che mentre francesi e tedeschi, soprattutto svizzeri, hanno la pubblicità misurata o a 5 o a 3 minuti addirittura di Svizzera, voi la fate a 15 e tendete ad allungare l'orario per se sembrare sempre in orario. La puntualità a 15 in Germania e in Francia è la nostra. Se poi legge i giornali della settimana scorsa, lei troverà che in Germania c'è lo scandalo perché la puntualità che il libro ha riportato non è vera. hanno detto che non è neanche l'80. Sì, naturalmente. Poi questo non significa statista dire che voi siete bene in orario, ma sono fuori orario anche gli altri, più o meno. Non è una, sì, proprio un io ne faccio un problema di confronto. Io ho detto come gli altri nell'alta velocità, non negli Eurostar, ma ha portato l'esempio del Rimini-Roma che viaggia su un binario e ogni volta che danno il croce col trasporto locale sicuramente non fa puntualità. Sto parlando dell'alta velocità. Mi permette anche una piccola cosa. Così come ha fatto confronto con questi cose degli altri, avrebbe dovuto fare un confronto tra il mio stipendio e quello dei miei predecessori. Anche lì c'è una falsità, perché io piglio 690 più 190, si dice, si aggiunge che ci sono altri 200 più altri 150 in quanto consiglieri. No, gli hanno suggerito male magari quello che ha fatto lo stipendio, perché quei soldi io li ho fatti assorbire dallo stipendio dell'amministratore delegato, quindi rimangono solo 690 più 190. I 190 non me li regalano, me li danno se raggiungo gli obiettivi, ma peccato che non ha detto quello che lì sembra essere il miglior manager da lui descritto, che mi pare essere l'ingegner Cimoli, quanto pigliava e quanto ha preso. Sì, mi pare. E soprattutto perché in 8 anni non siamo riusciti a mettere posto, 8 anni fu con la gestione. Devo dire che, guardi, ci tengo a dirlo che da osservatore esterno anch'io un po' penso che sia un po' squilibrato verso i predecessori e soprattutto verso i concorrenti, ma se posso dire la verità. Un'azienda lasciata con 2 miliardi di perdite, ma certo, lei lo sa, lei lo sa. Moretti, lei lo sa che la concorrenza si fa anche con i colpi bassi e con le critiche della comunicazione. Ma lei sa perché mi ha messo a me quel posto? Così chiariamo. Perché il revisore dei conti, Pricewaterhouse, aveva detto che non certificava i conti. Che questo è... E non certificava i conti perché non c'era un piano di impresa e perché c'erano delle perdite alle... E io non sono riuscito a comprare i treni prima di adesso, sia per il trasporto regionale che per l'alta velocità. Perché il rapporto tra equity e debito, 1-6 in Trenitalia, non mi permetteva di farlo. Adesso ho dovuto fare un minimo di ricapitalizzazione. Veniamo prima di chiudere a un altro punto dolente. Sì. La pulizia. Spero che oggi il TAR uscirà dandoci ragione sulle rimanenti azioni che sono state fatte dai signori che ci stanno adesso nella pulizia. Già abbiamo vinto 28 volte. In ogni caso siamo già riusciti a mettere altre ditte, alcune secondo gare, altre come subentro, perché abbiamo dequalificato quelle che non puliscono. E se lei va a Napoli, dove c'è un'impresa tedesca, tra l'altro il libro dice che nessuno verrà mai in Italia, beh, lì c'è un'impresa tedesca, è andata. Puliscono in maniera perfetta, dichiarato da chi? Non da me, dall'assessore Cascetta, che è il responsabile del contratto di quella regione, l'assessore. L'altro giorno c'è stata una conferenza stampa dell'assessore Loizzo di Bari, che ha fatto la stessa cosa in Puglia, dopo che abbiamo mandato via la vecchia ditta e abbiamo messo una nuova. Adesso, in questa settimana o nella prossima, spero di poter far subentrare le ditte, completare Roma, Liguria, Piemonte e poi entrare in Lombardia. Credo che nel giro di 2-3 mesi, dopo tutta la battaglia giudiziaria che c'è stata nel TAR e nel Consiglio di Stato, riusciremo anche su questa cosa a scrivere una pagina nuova. Mi creda, è una gran fatica. Non so perché in passato questa fatica non l'hanno voluta fare. Perché lo sa meglio di me, perché nella parcellizzazione dei microlotti di appalto e subappalto c'erano dietro interessi politici, c'erano connivenze. No, guardi, non sono interessi politici, sono interessi di molta altra gente, anche non solo politici. Per carità. Manager, come no? Per carità. Di gente, per sindacalisti, carità. Tutti. Per carità. Senta, veniamo ancora proprio al sindacato. Lei è stato dentro un grande sindacato, oltre che dentro l'azienda per tanto tempo e così via. Eppure è accusato di avere cattivi rapporti con i sindacati. Ma io non ho cattivi rapporti. Avevo cattivi rapporti anche quando ero dentro ai sindacati, perché ho sempre predicato cose dure. Quando sono stato nel sindacato, io sono stato quel signore stranissimo. La storia è nota, sono andato al sindacato perché ero arrivato ligato e stavo per uscire dall'azienda, poi per vari motivi mi hanno detto ma no, vieni qua, stai a fare un'esperienza qua dentro, l'ho accettata. Poi quando è arrivato Schimberni, uscito ligato, io sono stato quel signore con Schimberni, su mia proposta, abbiamo fatto un contratto con 50.000 ferrovieri in meno e lei può capire che anche dentro il sindacato una medicina di quel genere non era ben vista. Poi adesso capiscono che se non si fosse fatta quell'operazione negli anni proprio nel 1990, oggi l'azienda non sarebbe più... Non sarebbe in piedi, non avrebbe più le condizioni con quei costi per stare in piedi, questo non c'è dubbio. Senta, per l'anno prossimo, 5 secondi, che cosa è la cosa migliore che ci dobbiamo aspettare e che cosa invece è la peggiore? Ma io credo che abbiamo risanato molte cose, ancora cose dobbiamo fare. Ad esempio c'è un attacco, sempre sul famoso libro su Firenze, sono rimasti un po' indietro perché io... Tra l'altro si dice che ha mandato via solamente dirigenti che non erano ferrovieri, ma in verità ho mandato via molti, molti più ferrovieri. Questa libro l'ha fatta troppo arrabbiare, perché lei ne parla troppo. Sono costretto a dire, avevo dato 5 secondi per la buona e la cattiva, il tempo purtroppo è finito. Comunque, Mauro Moretti, come vedete, è battagliero, lo incalzeremo ancora, però certamente ha messo in moto un'energia prima che non c'era in quell'azienda, anche se, ripeto, dal punto di vista del mercato molto ancora va fatto. Ringrazio regia Pietro Bescapè, ringrazio la redazione Alessandro Marco Tulli, ringrazio naturalmente Moretti per averci dato quest'ora sottratta alle sue olive. Appuntamento a domani.